24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 40 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 6 aprile. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Lasciami dire in inizio un saluto a quanti tanti hanno scritto dopo la puntata sulla scuola di venerdì, nella quale ho vivacemente espresso un parere diverso dal nostro ospite che spero tornerà, e il sindacalista Sinopoli. Agli insegnanti che hanno scritto ricordando il loro impegno in queste ore, ricordo a mia volta che proprio una loro collega è stata mia ospite qualche settimana fa in un altro programma di Radio 24, Nessuno è perfetta, nessuno ha intenzione di ridimensionare il loro impegno, lo sappiamo bene quanto sono impegnati, ma l'importanza di tener conto di quanto la preparazione degli studenti va tenuta in prima, come cosa più importante di tutte, oltre alla loro sicurezza e salute. Quindi spero che la ministra Azzolina sia in grado di tenere conto sia delle esigenze di salute, perché siamo in Italia e il ricorso al TAR da parte di genitori è sempre dietro l'angolo. Però ricordiamoci anche che i nostri ragazzi dovranno affrontare le sfide della competizione mondiale con la loro preparazione, e il coronavirus si spera prima o poi finirà. Sì, sicuramente, tanto oggi vedremo, perché oggi dovrebbero essere approvate le nuove norme per la scuola, appunto, con un quasi annullamento della maturità, sostanzialmente un quasi annullamento dell'esame di terza media, e poi appunto questa ipotesi di recuperi scolastici nell'annata 2020-2021, nella speranza di esserci lasciati alle spalle ovviamente questo virus. Vedremo che cosa succederà, magari in settimana ospiteremo appunto la ministra Azzolina. Questa mattina cosa faremo? Avremo più avanti nel corso della trasmissione la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per fare anche un po' un punto innanzitutto sui settori di sua competenza e poi sull'altro decreto che dovrebbe essere approvato oggi, quello che darà liquidità alle imprese. Ma prima di tutto vogliamo andare un po' sul tema dei numeri da una parte e del cosa è andato storto dall'altra. Non è ancora il momento ovviamente di far processi, per così dire, no? Di attribuire definitivamente delle responsabilità. Però iniziare a ragionare sono condivise, no Simone? Le responsabilità sono un po' in questo momento confuse e certamente condivise, non si può dire ha sbagliato quello, ci sono stati errori di superficialità, ecco, un po' da tutte le parti. Giusto iniziare a ragionare su cosa è andato storto, in particolare per esempio dalle parti di Bergamo. Abbiamo il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, che Guido Marinoni. Buongiorno Marinoni. Buongiorno. Possiamo iniziare a tracciare qualche punto su questo, a mettere qualche paletto? Io voglio sapere cosa è andato male a Bergamo, è andato male tutto. Qualcosa è andato bene. È andato bene lo sviluppo delle terapie intensive, dovrebbe partire adesso il nuovo ospedale realizzato in pochi giorni, grazie al contributo di tutte veramente le forze produttive della società civile bergamasca, ecco, non so se della politica, ma di questo mondo sì. E anche degli alpini, male, credo, no? E certo, fanno parte della società civile gli alpini. Ma non solo, c'è stato tutti gli artigiani di Bergamo che si sono impegnati nel realizzarlo in tempi brevissimi, altro che la Cina. Però ecco, questo va bene, male è andato male tutto il resto, cioè si è scambiata una emergenza che era un'emergenza di sanità pubblica per un'emergenza di terapie intensive. Non era solo quello, c'era tutta la parte di sanità pubblica. All'inizio non sono stati isolati i casi, non sono state fatte le indagini epidemiologiche, non sono stati fatti i tamponi per evitare che i pazienti girassero diffondendo la malattia, sono stati mandati in giro i medici di famiglia senza protezioni individuali, poi se le sono procurate comprandoli alla ferramenta, comprandole nei negozi per l'edilizia, ma in realtà non le avevano e quindi sono morti, ne sono morti 5, Si sono ammalati in 150, di forme gravi, di forme lievi, ovviamente alcuni però gravi, soprattutto hanno involontariamente diffuso il contagio tra i pazienti. È stata fatta una politica dissennata sulle case di riposo. La prima settimana ATS ha imposto l'apertura dei centri diurni per anziani, che significa portare gli anziani e riportarli via la sera, quindi diffusione dell'infezione. Anche lì non sono state date, specialmente all'inizio, poi ci sono arrangiati tutti con un'arte molto italiana, ma all'inizio non sono state date mascherine, non sono state date protezioni individuali. Poi si era arrivati addirittura a proporre di portare i malati Covid nelle case di riposo separando aree delle strutture, ma senza avere chiaro come separare le equip. E quindi poi questa cosa è stata fermata, anche perché siamo intervenuti anche noi come ordine dei medici. Tutto quello che si poteva sbagliare è stato sbagliato con una politica territoriale inesistente. Poi attribuire le colpe è un altro discorso. Sì. Senza attribuire le colpe, lei che risposta si dà alla domanda, almeno per i primi 10 giorni a Bergamo e anche a Milano, ma adesso stiamo parlando di Bergamo, un po' tutta la classe dirigente, penso anche al sindaco Gori che si fece fotografare in un locale con la moglie per dire Bergamo va avanti, insomma all'inizio il messaggio che è stato dato, ripeto, dalla classe dirigente è: noi non ci fermiamo. Da medico, lei che risposta si dà a questo? È stata una sottovalutazione? Ignoravano la gravità del problema, che pure si era esploso in Cina? Che risposta dà da medico a questo atteggiamento? Allora, tutti all'inizio abbiamo sottovalutato il problema, e questo fa parte della non conoscenza del problema. Io sono convinto che lo stiano sottovalutando anche all'estero, che tutto sommato anche in Italia, io sento colleghi di altre regioni, sì, hanno capito, forse non stanno facendo gli errori che ha fatto la Lombardia, le cose vanno un po' meglio. Ma che cosa è successo veramente a Bergamo? Secondo me non ha capito nessuno. I dati dell'anagrafe parlano di 4.500 morti. Ma un conto è sottovalutare, un conto è, quando si è davanti a un problema, non mettere in atto le misure tecniche di sanità pubblica necessarie per contenerlo. E questo non è stato fatto, proprio da un punto di vista tecnico di gestione della sanità pubblica. Poi c'è stato l'errore di tutti gli errori, che è stato non chiudere subito Nembro e Alzano, quando forse si sarebbe potuto limitare molto il danno. C'è stata un'incertezza anche su questo, e forse è vero che i bergamaschi hanno pensato, come nel loro DNA, a lavorare, tant'è vero che poi hanno fatto un ospedale in meno tempo dei cinesi, però tutta questa voglia di fare e di non inginocchiarsi, di reagire, unita a un'incapacità tecnica di gestione e a una errata interpretazione della vera natura del problema da parte della regione, ha prodotto tutto questo. Allora, saluto Nino Cartabellotta, che è presidente di GIMBE, la fondazione dell'associazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze, che sta facendo uno splendido lavoro tanto di informazione quanto sui numeri. Buongiorno Cartabellotta. Grazie, buongiorno Simone, buongiorno Maria, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, inizierei proprio dai numeri. Marinoni ci citava i numeri di Bergamo. Noi riceviamo ogni giorno un bollettino dalla Protezione Civile, Cartabellotta, alle 18, che spesso, ormai mi pare che sia abbastanza chiaro a tutti, ci dà dei numeri che sono dei numeri indicativi, perché sono i numeri, per esempio, dei positivi accertati, ma noi la vera estensione del virus non la conosciamo. Ci dà il numero dei morti accertati, ma come lo stesso Marinoni ci indicava, il numero di vittime è, se prendiamo anche solo le residenze sanitarie per anziani, è molto più alto. Ci dà un quadro di come dobbiamo confrontarci con questa questione? Ma intanto è evidente che i numeri che vengono riportati alla Protezione Civile nel bollettino serale delle 18, che qualcuno ha definito un bollettino di guerra, lo è stato per tanti giorni, adesso diciamo sta migliorando in quelle che sono le situazioni estreme, quali i decessi e soprattutto il ricovero in terapia intensiva. Questo bollettino viene costruito attraverso tutti i flussi dei dati che arrivano dalle regioni e a ciascuna regione i dati arrivano dalle singole aziende sanitarie, dai singoli ospedali. Purtroppo sembrerebbe strano, ma le modalità con le quali le regioni, ad esempio, identificano i casi guariti non sono tutte le stesse. Alcune differenziano i guariti clinici dai guariti virologici, cioè quelli che hanno fatto i due tamponi a distanza di 24 ore. Ma quello che noi, per esempio, abbiamo scoperto con questo studio che abbiamo pubblicato la scorsa settimana è che proprio la Lombardia, che ha il numero più elevato di guariti, che poi peraltro nella colonna della Protezione Civile sono dimessi guariti, non comunica i soggetti guariti, ma comunica i soggetti che vengono dimessi dall'ospedale, che hanno fatto almeno un passaggio o in ospedale o solo dal pronto soccorso. Il che non vuol dire che sono guariti, sono solo stati dimessi all'ospedale. Che questi soggetti non si conosce lo status di guarigione, quindi dovrebbero andare a finire nella colonna dell'isolamento domiciliare, perché, come dice l'OMS, sono casi ancora attivi, mentre il soggetto guarito è un caso chiuso come il deceduto, perché non può di fatto più contagiare. Allora, questo è uno degli esempi con cui anche le modalità di rapporto e di relazione di trasferimento dei dati dalle regioni allo Stato non funziona perfettamente, senza contare quello che lei ha già citato sul numero dei decessi, su cui soprattutto nelle aree, la Lombardia, la provincia di Bergamo in particolare, i numeri sono andati un po' fuori controllo. È verosimile che a un numero molto elevato di soggetti deceduti non è stato nemmeno effettuato il tampone. Per cui i numeri sono questi, dobbiamo ragionare su questi numeri, ma sappiamo che possono essere altamente imprecisi. Alcune cose ovviamente possono essere assolutamente migliorate. Maria. Senta, Cardabellotta, tutti adesso aprono il cuore alla speranza e dicono, se i dati restano questi, abbiamo raggiunto il plateau, orrenda definizione per dire che insomma siamo fermi e forse comincerà la discesa dei contagi. Dal suo punto di vista, dal punto di vista di chi ha fatto appunto analisi in queste settimane, qual è il rischio maggiore una volta che si decida di aprire la fase 2? Cioè la cosa che proprio non bisognerebbe fare. Ma guardi, qua bisogna cominciare un po' a mettere un po' di paletti, e questo mi auguro che il governo lo faccia in tempi rapidi, perché poi sa bene che le regioni vanno un po' tutte per conto loro e quindi non vorrei che ci fossero delle fughe in avanti. Allora, da un punto di vista epidemiologico, noi possiamo cominciare a parlare della cosiddetta fase 2 quando abbiamo raggiunto il caso zero, cioè ovvero sia quando non ci sono più nuovi casi. A oggi ci sono vari modelli predittivi che collocano questo periodo tra la fine di aprile, primi di maggio, a metà maggio. È chiaro che non è possibile fare delle previsioni assolute. Cosa significa questo? Che prima di quella data cominciare a pensare di fare delle riaperture di qualunque natura è estremamente rischioso, perché il risorgere di nuovi focolai, di nuova diffusione di casi è medio alto, come è successo in altri paesi. Avete letto sicuramente che a Hong Kong, dove tutto era stato sostanzialmente risolto, sono stati i cosiddetti casi di rientro. Peraltro non dobbiamo dimenticare che noi in Italia abbiamo avuto una diffusione dell'epidemia in direzione nord-sud, con uno sfasamento temporale di una settimana, 10 giorni per il nord, dal nord al centro, e di 2 settimane per il sud, quindi non possiamo ancora a dire che siamo arrivati praticamente a quello che è un po' il plateau, che è o l'altopiano, come lo chiamo io, per contrapporsi al concetto di picco. Ecco, questo è il primo elemento. Il secondo è che noi oggi siamo a un incremento percentuale dei casi del 4% al giorno, che ovviamente dovrebbe tendere allo zero per arrivare a quel famoso punto in cui diciamo non ci sono più nuovi casi. Ma se noi questo dato lo valutiamo, come abbiamo cominciato a farlo dalla giornata di ieri, in un'ottica settimanale, quindi non cominciamo più a riportare i dati per giorno, ma li cominciamo a guardare per la settimana. Nell'ultima settimana, quella che va dal 27 marzo al 3 aprile, l'incremento percentuale dei casi è stato del 39%, cioè se noi guardiamo l'ottica settimanale ancora siamo abbastanza lontani da quello che è un momento di tranquillità, cioè significa che noi in una settimana, nell'ultima settimana abbiamo incrementato il 40% dei casi. Allora, quello che probabilmente è una delle modalità con la quale anche a livello centrale la protezione civile dovrebbe modificare la comunicazione dei dati è cominciare a dare dei confronti settimanali, perché il dato giornaliero purtroppo risulta essere troppo variabile. Questo per darci un'idea cartabellotta un po' più precisa. Allora ci prendiamo un attimo una pausa. Marinoni, cartabellotta, rimanete con noi, perché poi io da Marinoni vorrei anche capire, insomma, se si è fatto un'idea di ci ha dato un'idea di quelle che secondo lui sono le responsabilità della gestione sanitaria da parte della regione. Vorrei capire se identifica delle responsabilità anche da parte dello Stato oppure no, e sulle responsabilità sentire anche cartabellotta, insomma, sulla ricostruzione di cosa è andato storto, mettiamola così. Via. Mattino. Fuori dalla conta di morti e contagiati, insomma, ci sembra di poter dire che un piccolo segnale di speranza arrivi, lo abbiamo detto prima, dal tema delle terapie intensive. Iniziano ad esserci posti anche in Lombardia, o meglio, in Lombardia si inizia a non aver più bisogno di mandare le persone in altre regioni, e questo è un buon segnale. Marinoni, sul tema delle responsabilità dello Stato. Ma è mancata tutta la catena di comando. Io direi che allo Stato è quasi difficile attribuire delle responsabilità, perché lo Stato non c'è stato. La protezione civile ha detto che sono necessarie per gli operatori sanitari le protezioni individuali, ma su tutto il territorio si va avanti adesso con protezioni individuali che al meglio vengono da donazioni. Ci sono state aziende, persino l'aeronautica militare, privati che hanno donato. Abbiamo detto: non date soldi, date materiale, perché i soldi non ci servono, perché il materiale non lo troviamo. Lo Stato non ha provveduto in alcun modo ad approvvigionare di questo materiale. Non dico di darlo gratis, perché noi l'avremmo pagato, i medici di famiglia per esempio avrebbero pagato il materiale, non sono 200-300 euro, ma proprio non è stato fornito, è mancato l'approvvigionamento. I dati che forniti dalla protezione civile sono quelli che ha detto Cartabellotta. Lui è molto raffinato, da buon siciliano, anzi lo saluto, ma in realtà sono dati che sono privi di utilizzabilità. Si sono scambiati i dati dei ricoverati per i dati dei malati, si sono scambiati i dati dei morti con i morti in ospedale, proprio dati inutilizzabili. Anche sul discorso dei test, si è detto che sono necessari i tamponi per escludere la contagiosità, poi non è proprio così, perché poi ci arrangeremo anche per quanto riguarda il rientro, che è un altro tema, ma ne parliamo adesso. Però in realtà ci hanno detto che i tamponi sono indispensabili, però i tamponi alla fine non si possono fare. La potenzialità di Regione Lombardia è di 5.500 tamponi al giorno, che se si pensa a un'operazione rientro è una disponibilità assolutamente ridicola. Quindi, al di là delle conferenze della protezione civile, delle conferenze stampa, non mi sfugge cosa abbia fatto lo Stato e la protezione civile. Praticamente Marinoni, mi scusi, Marinoni, mi perdoni. Lei che risposta dà a quanti osservano che in tutta Europa il paese che sembra aver preventivato quello che sarebbe successo e comunque al momento sembra avere meno morti e aver gestito meglio la questione è la Germania, mentre il problema degli approvvigionamenti, ventilatori, mascherine eccetera, è stato denunciato drammaticamente anche dai medici in Francia e dai medici e dagli infermieri in Gran Bretagna, ma la Germania ha saputo prevedere prima. Lei si è dato una risposta: come mai? Perché sono stati, tra virgolette, più bravi? Beh, in Germania c'erano il triplo di posti, forse più del triplo di posti di terapia intensiva. Quadruplo, più o meno il quadruplo, Marinoni, prego. Sì. Rispetto all'Italia, alla Francia e alla Spagna, che sono lì. E questo è già un passaggio. Probabilmente in Germania hanno fatto una politica di sanità pubblica come dovrebbero fare tutti, ma dietro tutto questo, e mi piacerebbe sentire su questo Nino Cartabellotta anche, c'è il fatto che noi abbiamo considerato la sanità come un momento di spesa, il medico come un ordinatore di spesa, non come uno che produce salute. Allora io vorrei chiedere a qualche economista in termini economici che differenza c'è tra produrre salute e produrre automobili, perché qui pare che in questo paese produrre automobili, produrre computer, produrre quel cavolo che si vuole sia una cosa benemerita, produrre salute siano soldi buttati via. Dietro a questo è passato un depotenziamento drammatico del Servizio Sanitario Nazionale, e cosa si è andato a tagliare? L'ospedale in parte, e vediamo i posti letto in rianimazione, e poi si è tagliato tutto quello che è il territorio, si è tagliata la medicina di famiglia, che è stata pensata come un qualcosa che al più doveva occuparsi di cronicità. Adesso abbiamo visto drammaticamente che non è vero, è stata tagliata la sanità pubblica, la nostra sanità pubblica, affidata alle aziende sanitarie ospedaliere, infatti in Lombardia, è un qualche cosa che non, neanche lontanamente ha l'efficienza dei vecchi medici condotti che insieme ai sindaci nella fine 800, inizio 900, ci hanno portato fuori dalle malattie infettive. Adesso le malattie infettive ritornano, ecco che è successo questo. A chiudere, Cartabellotta, una riflessione su quello che diceva Marinoni e poi su, insomma, su come si è mosso lo Stato centrale. Ma guardi, io quello che ho pensato in questi giorni anche con i miei collaboratori è che l'epidemia da coronavirus ha messo in luce tutte le criticità che esistono nei rapporti Stato-Regioni nella gestione della sanità. Noi sappiamo che in materia di legislazione concorrente allo Stato spetta l'erogazione del finanziamento pubblico e la definizione dei livelli essenziali di assistenza, alle regioni tutta la parte di organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Probabilmente questa era una situazione, qualcuno dice con il senno del poi è facile parlare, però non si può immaginare che le regioni abbiano policy diverse per i tamponi, adesso policy diverse per l'attuazione dei test serologici, raccomandazioni differenti sull'uso delle mascherine, cioè è evidente che in una situazione di emergenza la catena di comando centrale doveva funzionare meglio. Per cui ci siamo chiesti se questa non era una di quelle situazioni che credo non sia stata mai attuata nella storia della Repubblica, per applicare l'articolo 120, perché l'articolo 120 della Costituzione di fatto interviene in tutte quelle che sono le materie di legislazione concorrente, sì, con modalità sostitutive sui poteri delle regioni, perché c'è un pericolo grave per l'incolumità, sì, o la sicurezza pubblica. Ecco, fatta diciamo questa premessa di tipo politico, normativo, è evidente che non è possibile essere troppo autonomi nella gestione di una serie di aspetti, perché poi ovviamente la catena delle responsabilità diventa catena degli errori quando si prendono delle decisioni, si parte in avanti per tutta una serie di aspetti. È stato citato il caso di Alzano e di Nembro, della mancata chiusura, sì, ma ci sono tanti esempi che in qualche maniera vanno a documentare che oggi non è che è mancata la catena di comando unica. La catena di comando unica non è possibile perché le modalità attuali di gestione della sanità non permettono, nell'ambito di una legislazione concorrente, una leale collaborazione Stato-Regioni, perché di fatto poi ci sono anche fattori politici, sì, fattori economici ed altri elementi che finiscono per influenzare le decisioni finali. Un ottimo punto che andrà sicuramente dibattuto. Grazie Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Buona giornata, Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, bentornata ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno Ministro. Maria, prego. Allora, io partirei da una notizia che lei ha già smentito e che però a me, come dire, incuriosisce e che tenderei a voler approfondire, Ministro, perché la stampa ha pubblicato, suscitando grande attenzione, la notizia di un accordo che sembrerebbe praticamente fatto per il passaggio del 51% di autostrade ai tedeschi delle assicurazioni Allianz. Lei ha smentito, il Ministro Patuanelli ha smentito, ma allora com'è nata? Si è fatta un'idea di com'è nata questa notizia? Ma francamente no, Allianz è socia di Aspi e quindi diciamo ci può essere anche, qualcuno può aver fatto un ragionamento conseguenziale. La mia smentita è soprattutto relativa al resto delle notizie, che è legata al rapporto che Aspi ha con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al fatto che noi non abbiamo notizie di una cessione a soci stranieri da parte di Aspi. Detto questo, noi andiamo avanti a lavorare anche con Aspi, perché non vi sfuggirà che abbiamo preso decisioni importanti anche sulla rete autostradale. Abbiamo azzerato i pedaggi per tutto il personale medico, abbiamo anche chiuso l'accordo con i gestori delle pompe di benzina sulla rete autostradale, un accordo che abbiamo seguito come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolar modo ovviamente con ASPI, perché ha la gestione di oltre 3.000 km di autostrada. Quindi noi andiamo avanti a fare il nostro lavoro emergenziale e ordinario. Chi ha interesse, diciamo così, a danneggiare il lavoro del Ministero o a determinare, creare preoccupazioni su un'infrastruttura strategica come quella delle autostrade, avrà il ben servito in momento opportuno. De Micheli, oggi, se non ho capito male, vi apprestate a varare come governo il nuovo decreto, no? Alle 11, quello che dovrebbe fornire liquidità alle imprese. Certo, non è la sua strettissima competenza, però le chiedo innanzitutto... L'hai fatto per anni, però. Esatto, appunto. Le chiedo se si è raggiunto già un accordo o se deve ancora vedere il testo sull'ipotesi di garanzie di liquidità al 100% per almeno alcune fasce di imprese. Allora, il testo è stato discusso ieri pomeriggio tra tecnici e capi delegazione, ovviamente il Consiglio dei Ministri ha dei margini di approfondimento. Il testo è un testo particolarmente articolato, fa sì che sostanzialmente tutte le tipologie di imprese, ma in maniera molto più forte, molto più sostenuta, le piccole e medie imprese vengano aiutate in questa fase così difficile da una garanzia per la propria liquidità, da una garanzia pubblica da parte dello Stato, e oltre a questo all'interno del decreto ci sono anche, oggi discuteremo anche tutta la parte relativa alla cosiddetta Golden Power, ovvero alla impossibilità su alcune aziende di natura strategica e nel nostro paese da parte degli stranieri di poterle scalare da parte di aziende straniere. Quindi sarà un Consiglio dei Ministri molto economico, dove ovviamente ci saranno anche alcuni aspetti da approfondire. Ho visto che c'è anche una norma molto importante sul potenziamento, per esempio, degli strumenti per l'esportazione, perché ci dobbiamo preparare per tempo a quando arriverà il momento di andarci a riconquistare i nostri mercati senza lasciare spazio, diciamo così, troppo alla concorrenza, ma andandoci a riprendere gli spazi che in questi anni ci eravamo conquistati in maniera molto importante. Penso a tutto l'agroalimentare, che è il settore dove lavoro io, che ha avuto risultati importantissimi, e ci sarà anche questo nel decreto, una previsione di grande sostegno all'export. Insomma, come vi avevo detto anche nell'ultima volta che abbiamo avuto il piacere di sentirci, noi ogni 10 giorni dobbiamo mettere le mani in soluzioni rispetto a problemi che sono totalmente nuovi, perché noi viviamo una stagione mai vista prima. Ci siamo un po' abituati adesso, no? Parliamo sempre del Covid, la fase 2. Ormai cominciamo a dire delle frasi, facciamo dei ragionamenti quasi come se questa fosse diventata una nuova normalità. Ecco, per il decisore politico non c'è assolutamente niente di normale. Noi dobbiamo prendere delle decisioni che prima non sono mai state prese, né sul fronte sanitario, ma visto che parliamo di economia, nemmeno sul fronte economico. Una domanda per capire e per far capire anche a chi ci segue bene che cos'è il Golden Power e a quali settori potrà essere applicato, perché abbiamo letto che non riguarderà soltanto le grandissime aziende che sono il oggetto, no, di mire anche internazionali e non da ora, ma potrebbe riguardare per esempio anche il filone agroalimentare, così? Ma il testo del decreto che ho visto ieri pomeriggio allarga molto il campo dell'applicazione della Golden Power, sia in termini di partecipazioni percentuali, sia in termini di settori. Diciamo che è uno strumento questo che il governo mette in campo per difendere e per scegliere, per poter, diciamo così, decidere quali realmente possono essere con partecipazioni strategiche, accordi strategici, e quali invece potrebbero trasformarsi semplicemente in scalate di settori che per noi, diciamo così, risultano fondamentali. Parlando dell'agroalimentare, non vi sfuggirà che le aziende agroalimentari di trasformazione agroalimentare rappresentano un asset determinante perché sono direttamente collegati con l'agricoltura, cioè hanno a che fare col territorio, sono le aziende che non si delocalizzano per eccellenza, no? Perché non si vanno a trovare certi prodotti in altri posti del mondo. Ecco, noi dentro questo decreto stiamo allargando il campo di azione per impedire che con facilità e senza un disegno strategico ci possano essere scalate anche a volte ostili delle nostre aziende. Ministro, in un settore invece di sua stretta competenza, che è quello della logistica, spesso ci hanno scritto e ci hanno mandato dei messaggi degli ascoltatori che fanno i camionisti o fanno o sono dei cosiddetti padroncini, no? E con una forte preoccupazione per questa fase, perché abbiamo il settore della logistica che è strategico naturalmente, perché sono le persone che poi molto semplicemente ci portano la roba nei supermercati, ci portano le cose a casa, sono quelli che ci consentono di sopravvivere in questa fase così complessa. Dall'altra parte la crisi liquidità riguarda strettamente anche loro, spesso aziende piccole in grande difficoltà, non tutte attive in quei settori adesso fondamentali per mandare avanti il paese. C'è qualcosa di specifico che avete previsto per loro? Allora, le misure a sostegno delle imprese, al di là del tema della liquidità che appunto affronteremo oggi con il Consiglio dei Ministri, sono previste per il prossimo decreto che ci sarà sostanzialmente in settimana, insomma. Io però vorrei chiarire una cosa: la logistica è stata individuata nel precedente decreto, nel Cura Italia, come uno dei settori per i quali sono state attuate tutte le sospensioni di pagamento delle imposte. La logistica in quel decreto è l'unica filiera che comunque sviluppava delle attività. Mi spiego meglio. Se voi andate a leggere il Cura Italia nella sua, diciamo così, prima stesura, tutte le altre filiere produttive che hanno avuto il beneficio della sospensione, che peraltro è un ragionamento sul quale dovremmo tornare esattamente nel prossimo decreto, erano attività totalmente azzerate, cioè attività che filiere che non fanno più fatturato perché sono totalmente chiuse. Pensate alla filiera del turismo, no? Cioè sta a zero come fatturato perché non c'è più un turista che si muove in giro per l'Italia o dall'estero verso l'Italia. Ecco, la logistica ha avuto un riconoscimento politico, seppur ancora in termini economici assolutamente insufficiente per il grande sforzo che sta facendo, ma noi abbiamo voluto dare un segnale a tutti gli operatori della logistica dicendo: si sospendono le imposte anche a voi, nonostante quello sia un settore che, seppur molto, diciamo così, ridotto, ma è ancora attivo. Perché? Sì. Perché abbiamo voluto dare il segnale della strategicità di questa filiera. E questo continuerà anche nei provvedimenti e nelle misure dei prossimi decreti. È ovvio che oggi prenderemo una decisione che vale per tutti, perché il decreto sulla liquidità e quindi sulle garanzie pubbliche per le imprese varrà in maniera indistinta per tutte le attività e quindi anche per la logistica. Ma quando poi arriveremo alle misure specifiche di settore, anche insieme agli operatori della logistica stiamo studiando alcune misure più diciamo così di dettaglio. Non è un caso che abbia convocato il tavolo della logistica per domani, per la giornata di domani, proprio perché mi sono arrivate le prime proposte e intendo discuterle ed approfondirle in tempo per il prossimo decreto. Ministro, prima che i minuti scorrano, ho una domanda sul rilancio dei grandi piani di edilizia pubblica, no? Ne parla anche il suo vice cancelleri oggi in un'intervista alla stampa, dice che state lavorando a un piano di rilancio che passi proprio per un grande piano di infrastrutture. Sento parlare di cifre diciamo piuttosto significative, 100 miliardi, e mi chiedo da dove arriveranno tutti questi soldi? Chi li prende, 100 miliardi di qua, 25 miliardi di là, 50 miliardi di qua? Allora, mi fa capire? No, allora, questa è una discussione. Nella vita bisogna sempre decidere da che parte stare, no? E bisogna decidere se, purtroppo, diciamo così, non semplificare e spiegare come stanno le cose oppure semplificare. Allora io provo a non semplificare perché provo a spiegare come stanno le cose, correndo il rischio di non essere simpatica per nulla. Nel bilancio dello Stato, nei prossimi 15 anni, sono appostati circa 160 miliardi di euro solo per la quota parte infrastrutture, trasporti, edilizia, diciamo tutte le competenze che riguardano il nostro ministero, sono appostate per i prossimi 15 anni, perché come è giusto che sia, nei bilanci dei paesi democratici le proiezioni di spesa sugli investimenti si fanno a 15 anni. Ok, quindi ci sono poco più di 150 miliardi. Addirittura noi adesso implementeremo questa cifra, perché l'allegato alle infrastrutture che presenterò al documento di economia e finanza sarà di 200 miliardi, perché noi abbiamo la possibilità di recuperare risorse che non sono state spese nel passato. Il punto di domani, ok, cioè di quando usciremo di casa e tanti potranno tornare a lavorare, è come prendere una parte di queste risorse, e per quest'anno noi siamo tra i 12 e i 13 miliardi di euro, e metterle immediatamente a terra in modo tale che facciano il famoso effetto leva per il PIL e quindi producano occupazione, producano altro lavoro, cioè generino altro lavoro. Ecco, una parte di queste risorse riguarda la parte trasportistica, le infrastrutture trasportistiche. Ci sono 15 miliardi e 4 dell'aggiornamento dell'accordo di programma con la rete ferroviaria italiana, che io chiederò che venga approvato per legge in via, diciamo così, super celere, in modo tale che nei prossimi due mesi possano essere fatte gare per i primi 6 miliardi. E poi ci sono altre attività e altre opere. Io credo che i cantieri già si siano sbloccati, perché noi quando siamo arrivati abbiamo messo a terra 10 miliardi, di cui 4 e mezzo erano totalmente bloccati da anni. In questi giorni, tanto per dirne una, abbiamo rimesso in circuito 46 milioni di euro per il sistema degli affitti, cioè i contributi che le regioni e i comuni possono dare alle persone che purtroppo vivono in una condizione di difficoltà per pagarsi l'affitto. Questi erano soldi vecchi, no? Adesso ci mettiamo quelli nuovi e sblocchiamo i 50 milioni che abbiamo messo quest'anno. Invece, per quel che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, noi abbiamo un piano da 850 milioni per quest'anno che sta seguendo il suo iter e sta andando avanti, ma è del tutto evidente che il fabbisogno di casa non si risolverà con questi primi 850 milioni. Quindi l'invito del mio vice ministro nell'intervista è quello di continuare a finanziare anche la filiera, soprattutto la filiera dell'edilizia residenziale pubblica, perché questa crisi economica determinerà un ulteriore fabbisogno di abitazioni a canoni molto bassi, e quindi noi dobbiamo farci carico ora di programmare per allora. Allora, grazie Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Io annoiato, vi siete addormentati con questa notizia. No, interessa tanta gente sapere dove troverà un tetto in futuro, perché appunto tanti non potranno pagarselo l'affitto, e quindi è bene pensarci in anticipo. Grazie Paola De Micheli, grazie. Buona giornata, buon lavoro e buon consiglio dei ministri. Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. Non sarà così, ci sentiremo alle 8:21, giusto per fare una cosa diversa. 8:15, anzi più o meno 8:15, 8:16, 8:16. Grazie Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Maledizione, oggi è proprio lunedì. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6:30, ciao.